24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:20 minuti, eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi con Carmelo Lauricella, oggi in regia. Abbiamo liberato l'Alpino un giorno prima, probabilmente. Allora, oggi avremo ospite, tra un'ora, alle 8:20, Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, per parlare della stretta attualità politica. E poi parleremo di un caso di cronaca a Monte Urano, la rapina in un'oreficeria finita in tragedia con l'uccisione da parte del titolare di una delle rapinatrici. E gli applausi della gente che ha... la gente di Monte Urano che ha applaudito l'orefice che appunto ha sventato questa rapina, uccidendo tra l'altro una delle assalitrici. E ci chiederemo cosa sia legittima difesa, cosa no. Di questo parliamo alle 8:30 però. E da che cosa iniziamo? Come al solito, a vedere che cosa ci propongono i quotidiani in edicola. In questo venerdì 6 aprile. Beh, le notizie che trovate sui giornali sono praticamente due che catalizzano tutta l'attenzione: la riforma del mercato del lavoro e il terremoto Lega. I titoli di apertura al Sole 24 Ore: lavoro, più tasse sulla casa, Marcegaglia dice riforma pessima e Monti si assuma le sue responsabilità. Per il Corriere della Sera, Bossi si dimette, i segreti di un addio, Repubblica, Lega è finita l'era di Bossi, La Stampa, terremoto Lega, Bossi lascia, Libero, la Lega non ce l'ha più, Il Giornale, Bossi se ne va e salva la Lega, Il Fatto Quotidiano, Bossi affondato in un mare di soldi, Per il Messaggero, scandalo Lega, Bossi lascia, L'Unità mette Bossi e Berlusconi con il titolo licenziati, Il Manifesto, canotta strappata, e c'è Umberto Bossi. Per Avvenire, il carroccio sbanda, Bossi si fa di lato. Il Secolo XIX, la truffa padana travolge Bossi. Insomma, come vedete, un menù quasi monocromatico, colore verde Lega, che di questi giorni segna davvero momenti difficili. Questo sui giornali. Allora, come detto, è difficile trovare altre notizie rispetto a queste due, ma vediamo qualche segnalazione un po' di diverso taglio. A pagina 30 del Corriere della Sera mi ha colpito molto questa novità che riguarda molti italiani che si spostano in bicicletta nei loro spostamenti quotidiani. Sì, alle bici contromano nelle strade a bassa velocità. Questa è la novità che viene annunciata dal Corriere della Sera, che potrebbe essere adottata presto in Italia. Il Ministero dei Trasporti ha dato via libera a questa novità. Ora toccherà ai comuni adeguarsi. Strada a senso unico, eccetto che per le bici. Questo cartello è il sogno di ogni ciclista urbano. Da oggi potrebbe diventare realtà. Così scrive Alessio Ribaudo a pagina 30 del Corriere. Tradotto significa tragitti più brevi, spostamenti più veloci, imboccando contromano strade a senso unico pensate oggi esclusivamente per le auto. Ovviamente, nonostante il via libera del Ministero dei Trasporti, chi spera di sottrarsi impunemente al codice della strada trasformandosi in pirata in bicicletta si sbaglia di grosso, perché il Ministero ha fissato dei paletti. Questo tipo di circolazione potrà avvenire solo su strade larghe almeno 4 metri e 25 centimetri e in zone con limite di velocità a 30 km orari, nelle zone a traffico limitato e in assenza di traffico pesante. Insomma, delle limitazioni che riducono tantissimo questa possibilità. Comunque ci sono dei comuni, fanno sapere dal Ministero, come Reggio Emilia, dove già hanno introdotto questa soluzione che consente al ciclista di usufruire di tragitti più brevi, evitando di seguire i sensi unici pensati esclusivamente per le auto e che portano il ciclista a fare giri molto più lunghi. Sta di fatto che questo cartello, transito contromano consentito alle biciclette, che è il sogno un po' di tutti i ciclisti urbani italiani, potrebbe presto essere una realtà. Due notizie che ho trovato, una sul Libero e una sul Quotidiano Nazionale. Sul Libero torna la polemica su Erika De Nardo, vi ricordate? L'autrice, insieme al fidanzatino Omar, del duplice omicidio della madre di Erika e del fratellino di Erika a Novi Ligure. Beh, c'è un'intervista a Don Mazzi della comunità Exodus, dove Erika è, da quando è libera. A pagina 20 la trovate, ribadisce Don Mazzi già la frase che aveva scatenato polemiche: Erika farà la missionaria, andrà in Africa ad aiutare i bimbi. Erika è rimasta con noi nel centro del Garda, sta affrontando con grande coraggio un percorso interiore, dice Don Antonio Mazzi, vuole cambiare, noi partiamo da un assunto, nessuno è irrecuperabile, si sveglia alle 6, va a letto alle 22:30, durante il giorno ha verifiche e 3-4 volte alla settimana un incontro con la psicologa. Io spero di mandarla il prima possibile in Africa come volontaria, sono convinto che possa seguire i bambini e fare del gran bene. So che questa mia idea farà storcere il naso a molti, ma sono convinto delle mie parole. Quello che è successo a Novi Ligure è accaduto perché allora lei era in balia della droga ed essendo una leader doveva dimostrare agli altri la sua forza. Quella Erika non c'è più. Così su Libero, a pagina 20, intervistato da Salvatore Garzillo, dice Don Antonio Mazzi. E poi una vicenda curiosa che riguarda una storia di un carcerato agli arresti domiciliari. Meglio la galera che stare con la sorella. Così in prima pagina del quotidiano nazionale la storia di un marocchino, Lachen, che esasperato dall'ennesima lite con la sorella, era agli arresti domiciliari, ha fatto lo zainetto, è andato dai carabinieri, ha detto: sono evaso, portatemi in carcere, vi prego, non ne posso più. La sua condanna scadrà nel febbraio 2013, ma il 28enne marocchino non ha più voluto saperne di stare ai domiciliari con la sorella, che aveva dato disponibilità ad accoglierlo, ma con regole domestiche molto strette, troppo strette per questo detenuto ai domiciliari, che così ha organizzato la sua evasione. È andato ai carabinieri e ha detto: eccomi qua, sono evaso, non sono più agli arresti domiciliari, vi prego fate tutto ma portatemi in carcere perché io con mia sorella a casa non ce la faccio. E il giudice gli ha dato contro, il giudice di Como, al termine del processo per direttissima, lo ha profondamente deluso, scrive Paola Pioppi sul quotidiano nazionale. Sentenze di Cassazione alla mano, ha stabilito che allontanarsi dai domiciliari per andare dai carabinieri non costituisce né evasione né reato e dunque lo ha assolto. Condanna: tornare a casa con la sorella. Sconti la sua pena lì, caro 28enne Lachen. La sua prigione è quella, sua sorella. Siamo qua a 7:34 minuti. C'è da dire che appunto le due notizie che trovate sui giornali sono le dimissioni di Umberto Bossi, il terremoto in casa Lega e la riforma del mercato del lavoro. Cominciamo dalla Lega. E beh, ieri c'è stata una drammatica seduta del consiglio principale della Lega con le dimissioni di Umberto Bossi nella sede di Milano. Ci sono tantissimi resoconti, io vediamo di trovare quelli che più mi hanno colpito. Mi avete preso per il culo, così avrebbe esordito Umberto Bossi, secondo Marco Cremonesi del Corriere della Sera. Mi avete preso per il culo, ma la cazzata più grande l'ho fatta io tutto da solo, non avrei dovuto far entrare i ragazzi in politica. Qualcuno me lo aveva detto: Umberto, devi scegliere tra la Lega e i figli. E così, insomma, è di un Umberto Bossi che si è sentito in qualche modo deluso, proprio secondo Marco Cremonesi, perché ha scoperto che probabilmente le auto pagate in leasing, in realtà le auto in leasing non erano davvero auto in leasing, quelle del figlio, che forse non ha davvero fatto lui da interprete nell'incontro tra Berlusconi e Hillary Clinton, come Boss invece andava in giro a dire, e che forse non è vero che si sta neanche laureando, addirittura nell'inchiesta c'è scritto, e si può evincere da qualche intercettazione, che ci sono anche dubbi sul suo diploma di Renzo Bossi. Allora sta di fatto che questa è la presa d'atto di una delusione. Umberto Bossi fa due interviste alla Padania, e questo era presumibile, lo intervista a Stefania Piazzo, vale a dire il direttore, il titolo è Non conta la carica ma il cervello e il cuore, lo intervista anche Ezio Mauro, direttore di Repubblica. A pagina 3 di Repubblica: attaccano la mia famiglia per colpire me e il partito, questa storia è troppo strana. Sconfitto, proprio no, mi sento colpito, questo sì, ma non mi hanno sconfitto, esordisce così Bossi alle 10 di sera, commentando con Repubblica. È una cosa strana questa storia, difficile da credere, condita da stupidaggini vere e proprie. Per esempio, mia moglie avrebbe la cassa della Lega, mi capisce? Chi la conosce sa che fa l'insegnante e nient'altro. Di che cassa stiamo cianciando? Chi mette in giro queste panzane? Così risponde Umberto Bossi. Io so che questa storia puzza, tutto qui, e lo dice tre volte, è proprio qui che nasce la puzza. Mandiamo i figli, siamo l'unica vera forza d'opposizione alla grande ammucchiata e a questo governo delle banche. Ci sono le elezioni. Ed ecco che proprio adesso tirano fuori questo scandalo. Dico solo, la cosa puzza. E poi su Belsito, l'ex tesoriere, non l'ho scelto un bel niente. Quel tipo lo abbiamo ereditato dal precedente amministratore. Lavoravano insieme e ci siamo fidati. E saltano fuori questi strani collegamenti con l'Andrangheta all'improvviso, senza che nessuno ci avverta mai di niente. E poi l'amministratore ha legami di lavoro con una società pubblica importante, vale a dire Fincantieri. Possibile che nessuno abbia fatto un controllo? Perché non chiedete a loro come mai non sapevano niente e lo chiedete solo a me? Insomma, Umberto Bossi, che non pronuncia mai la parola complotto, ma dice: questa storia puzza. L'inchiesta ormai è un terremoto di intercettazioni, tutte spiattellate sui giornali. Le trovate, per esempio, pagina 12 e 13 del Corriere della Sera, le più intense, se si può dire, riepilogate da Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, sono queste. Parlano sempre in genere Belsito, l'ex tesoriere, e Nadia Dagrada, segretaria amministrativa della Lega. Lui, dice Nadia, appunto, Dagrada, lui è Bossi, non ha idea del cumulo di spese, fidati, tu gli devi far capire che se questi vanno a vedere quelli che sono le spese, lui e la sua famiglia sono finiti. E poiché si tratta di cose della famiglia, non sono cose che compri tu, sono tutte per loro, le auto sono per loro, i ragazzi sono per loro, il figlio, le spese sono loro, il diploma è loro. Questo è incredibile, il diploma. Che vuol dire il diploma è loro? Ha comprato un diploma. Bah, i lavori di casa sono loro. E poi ci sono anche i soldi a Calderoli, almeno dalle intercettazioni. Belsito, la richiesta la ricordo benissimo, era un milione di euro, vale a dire la nota del redattore. Gli ho detto no, io uno non ce la faccio adesso, dovete darmi almeno 3 anni. E invece quelli di Cald, come faccio? Come li giustifico quelli? Ma quello non è un grosso problema, nell'arco dell'anno non è un problema, è un problema tutto il resto, risponde appunto Nadia Dagrada. E poi ancora i soldi a Rosimauro, sai quanto gli ho fatto l'altro giorno alla Nera? La Nera è il soprannome di Rosimauro, 29.142 franchi, e vuoi che ti dica tutti gli altri di prima? E poi si parla di macchine, di case, insomma intercettazioni molto dure. Io su Twitter li definisco anche personaggi da operetta, perché in un'intercettazione parlano sempre Nadia Dagrada e Belsito. Tu gli dici a Rosi, cioè a Rosi Mauro, io non ce l'ho col capo, la moglie, i 3 figli, il quarto lasciamolo in pace per il momento, o gli amici, il tuo gigolò. Gigolò. Perché in fondo di questo si tratta. L'assunto Paolo? No, l'assunto la vicepresidenza del Senato. No! Io so che è sotto la vicepresidenza del Senato e del suo segretario particolare, per questo si è messo in aspettativa dalla Digos. Cioè, secondo questa intercettazione, uno definito da loro il gigolò di Rosi Mauro, cioè della vicepresidente del Senato, sarebbe stato assunto alla segreteria del Senato. Vabbè. Oppure ci sono delle vicende, ma che, voglio dire, sconfinano quasi nel surreale. Sempre Nadia Dagrada e Francesco Belsito parlano della moglie di Umberto Bossi. Ma tu hai visto dove vive? C'è una mansarda su in casa, questo lo leggo da Repubblica, pagina 12, Piero Colaprico. E lì c'ha un comodino, una lampada, e per terra tutta la stanza con libri di magia nera e cartomanzia e astrologia. Ecco, questa è l'accusa che porta Repubblica a fare il titolo, cioè l'intercettazione che porta a fare il titolo: magia nera, sospetti e rancori. Adesso anche la moglie di Bossi, chiromante. Cioè, capite che c'è anche veramente dei risvolti melodrammatici in qualche modo. O ancora sul Messaggero le precauzioni di Rosy Mauro, intercettata, che parla con Belsito e al telefono dice metti la mano davanti, parla piano che ti sentono, accendi la radio, fai qualcosa. In un'intercettazione, come se tra l'altro mettere la mano davanti al telefono o accendere la radio in sottofondo possa eliminare la fonte delle intercettazioni. Vabbè, oppure... Si può reggere questa spiegazione che trovate a pagina 15. Intervistato Stefano Bonet, 46 anni, imprenditore di San Donà di Piave, presidente della Polares Carl, che viene definito lo sciampato in alcune intercettazioni e che avrebbe fatto affari con Francesco Belsito. Sentite come esordisce in questa intervista ad Andrea Pasqualetto, che lo ha raggiunto. Mi sono trovato, udite, mi sono trovato un bonifico da 4 milioni e mezzo di euro sul mio conto a Cipro. L'ho respinto perché l'ordinante era una novità assoluta. La Lega e non Belsito, mentre io avevo rapporti solo con lui. Cioè, avete capito? Si è trovato, aggiungo io, a sua insaputa, ormai è la frase che ogni italiano dovrebbe dire quando viene beccato con qualcosa che non va, a mia insaputa, io non sapevo niente, si è trovato 4 milioni e mezzo che gli arrivavano dalla Lega e non da Belsito. Dici, io avevo rapporti solo con Belsito, se mi arrivano dalla Lega li ho respinti subito, questi 4 milioni e mezzo a mia insaputa sono finiti sul mio conto di Cipro e io non ne sapevo nulla. Così esordisce nell'intervista, poi fa altre spiegazioni, ma io mi fermo lì perché a me è già abbastanza questa prima frase. Allora, le reazioni politiche. Berlusconi non ha fatto dichiarazioni ufficiali, ma nessuna nota ufficiale, ma un Berlusconi che verrebbe definito turbato e vicino a Bossi, così da Repubblica, pagina 7. Un film che conosco bene, quello delle procure che ti mettono di mira, questa frase attribuita a Berlusconi. Sta di fatto che è un terremoto vero e proprio, noi ne parleremo alle 8.20 con Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, con cui tratteremo anche dell'altro tema principe sui giornali, vale a dire la riforma del mercato del lavoro. Allora, la novità del giorno è questa, che c'è uno scontro dialettico anche molto duro, c'è stato ieri tra il presidente Mario Monti e il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha definito il testo pessimo per le modifiche apportate. Tra l'altro in prima pagina del Sole 24 Ore c'è un editoriale del direttore Roberto Napoletano. La regola aurea che il professor Mario Monti non può non conoscere è che un presidente del Consiglio in visita all'estero parla del suo paese, vende il titolo Italia, ma non si occupa delle vicende interne, non risponde alle polemiche domestiche, non scrive lettere ai giornali sui rapporti tra governo e partiti. Il verbale chiuso sulla riforma del mercato del lavoro è stato riaperto, si sono inventate coperture rozze, cosa c'entrano i rincari su casa, auto aziendali, biglietti aerei? Si è indebolita la flessibilità in uscita, sono rimasti intatti oneri contributivi, rigidità sui contratti in entrata in una dimensione tale da rischiare di ridurre le occasioni di occupazione per i giovani e i tanti troppi quarantenni e cinquantenni che si sono ritrovati dalla sera alla mattina senza un reddito. Non ci resta che una speranza, si rifacciano di giorno i conti maldestramente impostati di notte. Così Roberto Napoletano nel suo editoriale Andata e Ritorno. Pessima, appunto, l'ha definita queste modifiche il presidente di Confindustria Marcegaglia. Le modifiche le vedremo tra poco, dopo le informazioni sul traffico, anche con le reazioni. Il ministro Elsa Fornero, secondo il Corriere, ha definito reazioni isteriche e fa un'intervista alla Stampa dicendosi delusa e parlando di teatrino delle parti sociali, ma tutto questo tra poco. E allora il nodo coperture della riforma del mercato del lavoro, a pagina 3 del Sole 24 Ore, auto e affitti pagheranno la riforma. Per finanziare il DDL Fornero serviranno 1,7 miliardi nel 2013 e 3 miliardi nel 2014, questi sono i calcoli nell'articolo di Dino Pesole. E le modifiche che cosa sono? Beh, intanto si pagherà Dal 1 luglio 2013 i voli aerei, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri applicati sui biglietti aerei, sarà maggiorata di ulteriori 2 euro a passeggero imbarcato, raggiungendo così 5 euro. Maggior gettito previsto 64,7 milioni nel 2013, 129 nel 2014 e così anche nel 2015. Modifiche in arrivo anche per le auto aziendali attraverso la riduzione dal 90 al 70% per i mezzi in uso promiscuo concessi ai dipendenti, mentre professionisti, artigiani e commercianti avranno sconto fiscale per i mezzi utilizzati per l'esercizio d'impresa che scende dal 40 al 27,5%. Insomma, tutto questo per finanziare la riforma, tanto che in prima pagina il quotidiano Italia Oggi titola Monti, il tassator cortese. Il titolo è efficace mediaticamente, effettivamente. Dicevo però dello scontro dialettico. Emma Marcegaglia ha parlato di testo pessimo. Non rinnoveremo i contratti, ha detto. Questa sarà la soluzione poi finale. Tra l'altro c'è sul Sole 24 Ore, a pagina 5, anche Squinzi, Giorgio Squinzi, cioè colui che succederà Emma Marcegaglia, la presenza di Confindustria, che dice sono totalmente d'accordo con Emma. E la reazione, beh, Monti ha fatto una reazione ufficiale, ha detto si assuma le responsabilità delle sue parole, Emma Marcegaglia, ha ribadito che il reintegro comunque è un'ipotesi estrema, ha detto 3 mesi fa Confindustria si sarebbe sognata una riforma del genere. Le reazioni, secondo il Corriere della Sera, Elsa Fornero, ministro del welfare, ha definito reazione isterica quella del presidente di Confindustria, parlando di teatrino delle parti sociali, dicendosi molto delusa. Questa è un'indiscrezione. In realtà, nell'intervista ufficiale che fa alla stampa, intervistata da Mario Calabresi, dal direttore, Elsa Fornero, a pagina 13, delusa dalla Marcegaglia, il teatrino delle parti sociali, sono sconcertata dalle demonizzazioni, per anni hanno biasimato il teatrino della politica, ma qui siamo al teatrino delle parti sociali. Questa è la dichiarazione del ministro del welfare Elsa Fornero. Prima di tutto bisognerebbe essere anche responsabile nei messaggi che si mandano ai mercati e all'estero, dice il ministro Fornero riferendosi a Emma Marcegaglia, che ha detto testualmente "The text is very bad" in una delle prime interviste all'estero. Al Financial Times, nello specifico. Vi hanno accusato di avere fatto marcia indietro, chiede Calabresi a Elsa Fornero. Il governo non ha fatto alcuna marcia indietro, le modifiche apportate non sconvolgono l'impianto né fanno venir meno la spinta innovativa della riforma. L'unica novità che c'era e c'è nella riforma dell'articolo 18 è aver inserito la clausola della manifesta insussistenza dei motivi economici come possibilità di reintegro. E riguardo alla trattativa, dice, con le parti sociali c'è stato un lungo dialogo ma nessun accordo e nessuna concertazione. L'accordo invece bisognava trovarlo con i partiti politici e c'è stato un lungo confronto. Poi Alfano e Casini hanno teso la mano a Bersani, nel senso che gli sono andati incontro per cercare una sintesi tra le forze che insieme sostengono il governo. C'è da dire che, insomma, non solo Confindustria, anche la CGIL mantiene la sua, per altri motivi, la sua ostilità e la sua negatività alla riforma. Sul precariato c'è poco. Susanna Camusso fa 2 interviste, una all'Unità, la trovate a pagina 9, una a Repubblica, la trovate a pagina 19. A Repubblica dice i giovani traditi, la legge non crea posti, il reintegro è ritornato solo grazie a una nostra mobilitazione. Vabbè, insomma, queste sono, come detto, le 2 grandi notizie che prendono praticamente la gran parte dei giornali. Che cosa c'è di altro? Beh, noi ci occuperemo della vicenda di questa rapina che è finita in tragedia, in una oreficeria a Monteurano, in provincia di Fermo. L'orefice ha sparato, vittima una donna di 35 anni. E mi ha molto colpito, all'uscita in barella dell'orefice la gente ha applaudito. C'era il cadavere lì a terra della rapinatrice, una delle 4, gli altri si sono dati alla fuga, e gli applausi del paese all'orefice, hai fatto bene. Ora ovviamente, come al solito, rischia un'incriminazione, perché se si scoprisse per esempio che questa donna stava fuggendo, Beh, la legittima difesa, così prevede la legge, piaccia o no, non prevede che uno, per esempio, possa sparare a una persona che sta fuggendo. Ripeto, piaccia o no, la legge è questa. L'orefice e la rapinatrice uccisa proverò rimorso per tutta la vita, così a pagina 16 del Quotidiano Nazionale. Sono sotto shock, vi prego, non ho dormito tutta la notte, ho la testa che mi fa male, lasciatemi in pace. Così Francesco Cifola, che è l'orefice, appunto, che ha reagito. Quando i rapinatori sono andati verso mio padre e gli hanno puntato la pistola contro, non ho capito più niente, volevo solo difenderlo. È stata una grande tragedia e vivrò nel rimorso per tutta la vita. Ci sono anche i profili di chi è la donna che è rimasta uccisa. Vorrei cambiare vita e ricominciare, la promessa tradita della rapinatrice, diceva così, matrimoni sbagliati, brutte amicizie. Storia di Rosa uccisa durante un colpo. Ne parleremo, ripeto, alle 8:30. Alle 8:20 invece abbiamo Pier Ferdinando Casini. Voglio chiudere con un sorriso. La Gazzetta dello Sport. Gene Gnocchi col suo rompipallone oggi. Dramma Pato. Sorride solo Barbara Berlusconi. Dovrà stare a letto un mese. 24 mattino. Siamo qui alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci allora a fare due chiacchiere sull'attualità politica. Lo facciamo con il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, che saluto. Presidente Casini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, partirei dalla riforma del mercato del lavoro. Ieri c'è stato uno scontro anche dialettico non male, insomma, per Monti è un buon compromesso, per la leader di Confindustria Marcegaglia sono modifiche pessime. Per lei com'è questa riforma? È un buon compromesso, per molto meno vorrei ricordarlo alla Marcegaglia, che peraltro stimo perché è un'ottima imprenditrice, ha fatto molto bene in Confindustria, ma per molto meno Cofferati portò in piazza 3 milioni di persone, e basta vedere le reazioni di Landini della FIOM per capire come naturalmente la verità sta in mezzo. Certo, è un compromesso, non poteva essere diversamente, ma la revisione dell'articolo 18, così come è stata impostata dal Presidente del Consiglio, limita molto le possibilità di abusi, e nello stesso tempo va incontro a quello che erano le richieste delle imprese. Mi sembra che il giudizio della Marcegaglia sia un po' ingeneroso. Ingeneroso. Senta, appunto, il problema principale è quello di aver reinserito la possibilità del reintegro per l'insussistenza di motivi economici. E questo però, dice Marcegaglia, crea incertezza negli industriali, che così non rinnoveranno i contratti e non daranno nuove opportunità di lavoro, temendo i contenziosi. È chiaro che questo è il punto di vista della Confindustria, io lo rispetto, ma bisognava trovare un'intesa mediana, era inevitabile, è sempre così per le riforme, ci sono le imprese, ma ci sono anche i sindacati, c'è una visione legittima di una parte e anche quella dell'altra. Non dimentichiamo quello che questo governo ha fatto sulla previdenza, in quella circostanza gli industriali applaudirono e i sindacati criticarono fortemente. In questo caso c'è stata, nel finale della trattativa tra le forze politiche e il Presidente del Consiglio, una apertura ad alcune richieste, ma se noi pensiamo a quello che era la situazione del mercato del lavoro prima, io credo tutto sommato che la innovazione che c'è stata è di grande portata, non può essere sottovalutata. Non facciamoci del male a vedere oggi il bicchiere mezzo vuoto, perché il bicchiere è mezzo pieno. Ma secondo lei ci saranno modifiche in Parlamento? Perché ora la palla passa alla politica. E modifiche e sostanziali, oppure modifiche? L'impianto deve rimanere quello, come vuole Monti? Il Parlamento non è passacarte. Il Parlamento potrà fare delle modifiche. È chiaro che le modifiche non possono investire la tenuta sostanziale dell'impianto complessivo della riforma. Chi sostiene il governo lascia spazio, e noi lasciamo spazio, a modifiche migliorative. Penso soprattutto al tema della flessibilità in entrata, ma non può assolutamente svuotare il significato e l'intesa complessiva di questa riforma. L'intesa c'è stata, e le persone d'onore come noi non possono venire meno. meno. Senta, parliamo di Umberto Bossi. Se c'è un politico che non è mai stato tenero con lei, Umberto Bossi, voglio dire, dalla carogna all'inutile, io poi mi perdonerà, relata refero, ma anche dello stronzo le ha dato, cioè, insomma, ha usato tutti gli epiteti possibili. Lei oggi cosa prova per Umberto Bossi? Massa, sono stato talmente sempre oggetto delle critiche e delle offese di Bossi che francamente non vorrei ripagarlo con l'uguale moneta. Bossi oggi esce di scena, di fatto si parlerà tanto delle crisi dei partiti, ma sfido io a pensare se c'è un altro partito politico italiano in cui l'impasto tra le vicende familiari e le vicende finanziarie è uguale a quello della Lega. Francamente basta il buon senso per capire che è un'anomalia tutta padana. Ma io credo che in momenti come questo ci voglia un... è inutile dare giudizi, è inutile dare il calcio dell'asino, non mi piace. Bossi esce di scena, probabilmente su questo epilogo ha inciso fortemente anche la malattia che lui ha avuto in questi anni, che gli ha fatto perdere un po' il controllo della situazione. Certamente è stato un grande protagonista della politica italiana, lo è stato... C'è la... la linea telefonica che è andata via. Presidente Casini, non la sentiamo più. Proviamo a richiamarlo, a capire se c'è ancora spazio per un paio di domande. Comunque, insomma, stavamo parlando di Umberto Bossi. È saltata la comunicazione. Ci sente? Non lo so, perché non ho sentito il tu classico. Magari ci sente, magari no. Chi lo sa, in ogni caso, insomma, questa è l'idea di Pier Ferdinando Casini. Immagino che adesso il cellulare sarà occupato. Sono gli imprevisti della diretta, sono cose che succedono. Alle 8:26 minuti, allora, abbiamo sentito di riforma del mercato del lavoro, di Bossi, Lega. Volevo fare ancora un paio di domande sulla questione del finanziamento ai partiti, perché qualcuno dice che questi soldi sono finanche troppi. Non tanto, ci vorrebbe una legge per la trasparenza, ma togliere i soldi. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato, Presidente Casini, l'abbiamo recuperato. Sì. No, stava parlando di Bossi, comunque le chiedo questo, il finanziamento... Cioè, dicevo, scusi che volevo terminare il concetto, perché non so dove ci siamo persi, ma una cosa voglio dire, il fallimento di Bossi non è tanto nell'epilogo, in quello che è capitato, che è comunque... gli occhi di tutti, per cui i giudizi miei sono inutili e la gente darà un giudizio pessimo di quello che è capitato, ma la sua sconfitta politica è nata dopo tante innovazioni e tante intuizioni nel non aver trasformato la Lega negli autonomi catalani, cioè in Catalogna, a Barcellona c'è un movimento di autonomismo catalano che sa coniugare la richiesta di federalismo con il buon governo. Quando si intuisce che il federalismo è una strada, ma poi si solo a slogan, a populismo, a demagogia, e sulle cose concrete non si fa niente, sì, e il buon governo non c'è, ma ci sono le chiacchiere, le battute, le magliette, le ampolle, le offese, lei capisce che alla lunga la gente non può far vivere un movimento solo imperniato sulla demagogia. È chiaro che è una pagina brutta per la politica, perché quando un movimento che suscita tante speranze come la Lega frana in questo modo, è chiaro che è alla fine una sconfitta della politica, sì, non solo per i leghisti. Però da qui è subito partito un'iniziativa, tra l'altro anche sua, di Bersani, di Alfano, di loro: cambiamo la legge sul finanziamento dei partiti, cioè ci vuole più trasparenza. Ma guardi che la gente, no, più che più trasparenza, chiede meno soldi ai partiti. Non andrebbero cancellati, per esempio, questi rimborsi elettorali, o almeno farli diventare veri rimborsi? Spendete 100 e ottenete 100 e non il triplo o il quadruplo. Ma sa perché oggi l'ipocrisia dei rimborsi elettorali è che poi questi consentono ai partiti di vivere tutto l'anno, anche fuori dalla campagna elettorale. Appunto. La gente deve decidere, però, se pensa che i partiti che devono rimanere in piedi in Italia possono essere solo quelli finanziati da chi ha i soldi, facciamo questo, cioè aboliamo il finanziamento completamente, anche i rimborsi elettorali. Probabilmente Berlusconi, il suo partito, se lo riuscirà a fare. Ma che sono troppi, altro, no. Sono troppi, cioè il finanziamento sì, ma sono troppi. Ma è chiaro che in queste qui ci sono anomalie forti. Primo, quando i soldi non si spendono alla fine dell'anno, quei soldi in eccedenza devono essere restituiti, prima cosa. Seconda cosa, quando i partiti come la Margherita chiudono, non possono più ricevere rimborsi elettorali. E terza cosa, se mi consente, un controllo pertinente della Corte dei Conti sui bilanci dei partiti, cioè sui bilanci dei partiti, sulle spese dei partiti. C'è l'autonomia naturalmente dei partiti, non è che la Corte dei Conti può venire a sindacare come si spendono, ma che ci sia trasparenza nei bilanci, nella loro compilazione, nella vita interna dei partiti, che possano ricevere soldi solo i partiti democratici in cui si fanno elezioni di dirigenti, ci sono soci che partecipano, tutto questo deve essere assolutamente certificato. Io l'avevo già proposto prima della lettera di Bersani con un disegno di legge. Siamo disponibili noi dell'UDC anche a far sì che si faccia un decreto contro la corruzione, che lo faccia il ministro Severino, in cui inserisca questi elementi. Quindi più siamo velocità, rapidamente, anche sia un decreto che sia più rapido. Sì, sento, sì. Da chiederle due cose flash. Irene Pivetti, qui ai nostri microfoni, proprio in questo spazio, qualche giorno fa ha detto a Casini ha fatto il bel gesto rinunciando ai privilegi da ex presidente della Camera. In realtà non doveva votare quella delibera che va contro ad personam, contro me e in Grau, me Irene Pivetti, ma si è fatto un po' di pubblicità dicendo rinuncia ai privilegi. Guardi, io mi sono fatto pubblicità o non pubblicità, francamente non mi sembra di aver molto bisogno di pubblicità, visto che non è che sono in carenza di visibilità. Comunque non mi interessa, non voglio né applausi, non voglio elogi, chi mi vuol criticare mi critichi. Io in coscienza ho rinunciato a questi benefits, non tanto perché in condizioni di normalità un ex presidente della Camera non debba avere certe prerogative, ma perché in questo momento mi è sembrato importante dare un segnale e soprattutto mi è sembrato importante che la gente capisse che oltre che le chiacchiere c'era qualcuno che faceva fatti. Però non significa questo che io sono meglio di Violante, di Bertinotti, di Pivetti, di Ingrao, loro facciano come ritengono. Lei ha ritenuto di fare così. Io li stimo, io ritengo si fa così. L'ultima cosa, un sì o no, secondo lei Monti, ma davvero pensa a ricandidarsi nel 2013 oppure no? Monti è molto importante per l'Italia e prima di lasciarcelo scappare bisogna pensarci due volte. Non interessante, cioè, è interessante questa... Sono stato breve, non è un po'... anche interessante, voglio dire, o si ricandida Monti, o viene cooptato in qualche forza politica. Monti è senatore a vita, non ha bisogno di candidarsi, ma è una persona che ha portato una grande qualità, autorevolezza, anche a livello europeo e internazionale, lo vediamo, per la politica italiana. E io credo che sia importante che noi associamo le future scelte del paese una personalità come Monti, come altri. Politici e tecnici non devono essere in due compartimenti stagni diversi, devono collaborare assieme come stanno facendo oggi e come potranno fare un domani nel governo del paese, direttamente lì. Grazie, buona giornata ovviamente a Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, ex presidente della Camera. E che dire, noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi andremo a capire cosa è successo a Monte Urano, in provincia di Fermo, dove una rapina a una gioielleria è finita nella tragedia. L'orefice ha sparato, ha ucciso una delle sue rapinatrici ed è stato applaudito dalla folla quando è uscito. Ora rischia però un'incriminazione per accesso e eccesso di legittima difesa o per omicidio, anche omicidio, perché non era legittima difesa, lo era. Lui ora dice: convivrò malissimo con l'uccisione di questa rapinatrice, non riuscirò più a togliermelo dalla testa per tutta la vita, ma appunto il paese ha applaudito. 7 minuti, due giorni fa Monte Urano, un paese provincia di Fermo, siamo dunque nelle Marche, è stato scosso da questa rapina a una gioielleria che è finita nel sangue perché una delle rapinatrici è stata uccisa dall'orefice che ha reagito, Francesco Cifola, che oggi dice: sono sotto shock. Dovrò convivere tutta la vita col senso del rimorso per aver ucciso questa donna, Rosa Donzelli, 36 anni, che appunto era uno del gruppo dei rapinatori. E quest'uomo ora è indagato, è un atto dovuto dalla procura per omicidio colposo con la fattispecie dell'eccesso di legittima difesa, ma mi interessa capire, parlare e approfondire questo episodio di cronaca perché si presta a diverse considerazioni. Allora lo facciamo intanto con il sindaco di Monteurano, Francesco Giacinti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Saluto anche, voglio salutare Enrico Balducci. Buongiorno, signor Balducci. Buongiorno a lei. Il signor Balducci è un imprenditore, è stato anche consigliere regionale in Puglia ed è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio di una rapina sventata a un distributore di benzina il 5 giugno del 2010, è questa la data, Balducci, 5 giugno 2010, nel quale lei ha reagito e ha sparato e ha ucciso uno dei rapinatori. Che lei per questo è stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere per omicidio volontario, è così? Sì, martedì. Proprio è stato qualche giorno fa. Dispositivo, peraltro questa è la prima volta che parlo, francamente. Sì, infatti di questo io la ringrazio molto perché per 2 anni lei ha mantenuto il riservo, insomma. Io non è che vogliamo tanto entrare nella sua vicenda giudiziaria, certo. Perché ovviamente per questo ci sono i tribunali, so che lei l'ha contestata e la contesterete in appello ovviamente. Intanto che effetto le fa mettersi un attimo nei panni dell'orefice che dice provo il rimorso per la vita che ho tolto dopo tutto, anche se ovviamente mio malgrado, visto che sono stato aggredito, ero lì per lavorare e c'è stata una rapina? Ma è un dramma. Penso che io, francamente, da quel maledetto pomeriggio, diciamo i primi 10 giorni praticamente non parlavo, poi ho perso 18 chili, e, insomma, una cosa, e non riesci nemmeno a difenderti, guardi, io le dico che, perché se non sei un delinquente, poi alla fine è una cosa molto pesante sul piano psicologico. Perché guardi, le dico proprio con franchezza, ma anche se il rapinatore che viene a farti la rapina fosse, che ne so, Totorina, tu non tratti più questa cosa dalle spalle. Poi, voglio dire, un po' le pressioni dell'ambiente malavitoso di Bari, diciamo, mi hanno così portato a reagire sul piano personale, nel senso che poi alla fine tu devi riuscire a vivere perché magari hai figli, hai dipendenti e quindi in qualche misura, però io penso che alla fine ti difendi male, comunque ti difendi male complessivamente. Rimane il peso di una vita che lei ha tolto, insomma questo non lo potrà cancellare nessuno. Ma questo è assolutamente evidente, poi sa lei, molti non riescono a capire cosa sia una rapina o un tentativo di rapina. Nel senso che sono veramente frazioni di secondo ed è difficile immaginare una nostra capacità di riflessione, cioè accadono anche delle cose fisiche durante una rapina, cioè perdi la vista periferica, cioè accadono tante cose che per chi non c'è passato, io non auguro a nessuno di passarci, sono incomprensibili. Lei c'ha presente la moviola del calcio, sì. Poi magari quando, che poi si dice però l'arbitro poteva vedere, non l'ha visto, e allora si va al rallenti, è un evento che magari è durato 4 secondi e tu ci stai 5 minuti sopra, e a cose fatte poi tutti possono ragionare, dare valutazioni, il mio evento è durato in tutto 5 secondi. E dal momento dell'estrazione dell'arma del rapinatore al momento in cui purtroppo io ho fatto fuoco è passato un secondo e un quarto. Ora è chiaro che poi quando si va e io capisco qual è il dramma e so che Cifola non parlerà nei prossimi mesi, però diciamo è molto brutta questa cosa, guardi. No, ma che lo sia molto brutta non c'è dubbio. Tra l'altro io, il sindaco di Monteurano, volevo partire proprio da lei, Enrico Balducci, però volevo far ascoltare anche la sua voce al sindaco di Monteurano, sindaco Giacinti. Ha molto colpito ed è finito sui titoli dei giornali la vicenda degli applausi della gente che ha applaudito, ha manifestato solidarietà all'orefice e per carità solidarietà per quello che ha subito, però in quel momento momento c'era anche una vita, poi ognuno può giudicare quello che vuole, una vita perduta lì per terra, per una scelta certo sua, è andata a fare una rapina. Sindaco, lei tra l'altro ha parlato con l'orefice Cifola, ecco, intanto ci racconti davvero, se questi applausi, come lei li interpreta da primo cittadino, rappresentante di quella comunità? Sì, sì, la ringrazio di questa domanda perché credo che sia giusto e doveroso un po' chiarire questo particolare. Innanzitutto va detto che io ero presente quando si sono verificati questi applausi, chiamiamoli così, il corpo della vittima era stato già trasportato via, quindi è giusto evidenziare che non era presente lì sulla strada il corpo della povera ragazza. Ma a mio modo di vedere, insomma, questo applauso va interpretato in un senso e liberatorio di una brutta vicenda che si è conclusa nel momento in cui Francesco Cifola usciva, è stato trasportato all'ospedale per alcune ferite così riportate in questo tragico momento. E oltre a questo senso liberatorio, anche un senso di vicinanza. Io questa interpretazione mi sento di dare da cittadino e da sindaco, nel senso che si è voluto manifestare una certa vicinanza per un tragico, una tragica giornata che ci ha avuto un epilogo, come dire, drammatico per una serie di circostanze, ma non voleva essere, a mio modo di vedere, irriguardoso nei confronti, sì, della vittima, perché poi a qualcuno piace dare un po' questa interpretazione. Sì, ma lei guardi, io glielo dico sindaco, non perché a me piace parlare di tutto senza problemi. Se dovessi leggerle anche molti messaggi che ci arrivano in diretta al 349-238-6666, guardi che il sentimento di molti che dicono ha fatto bene, doveva uccidere anche gli altri tre, quel gioielliere merita un premio invece di essere incriminato. È un sentimento popolare molto diffuso, di cui forse non c'è neanche bisogno di vergognarsi, questo è, io glielo registro, sì, e glielo riporto. Ma qualcuno sicuramente potrà pensarla così, però ecco, se torniamo nello specifico, io ero presente in quel momento, io ho dato questa interpretazione. Sì, lei ci tiene a dire, non era un gesto irriguardoso, irrispettoso verso una vita che comunque non c'era più, ma un gesto di solidarietà verso un concittadino che aveva subito questa cosa. Secondo il mio pensiero mi piace e preferisco pensare in questa maniera, perché un po' la comunità la conosciamo, insomma, è un po' questo il senso, è una comunità coesa, solidare, ma che anche basata su principi sani, che più volte ha dimostrato insomma questo modo di essere. Certo, sta di fatto che c'è il problema della cosiddetta legittima difesa. Allora, dopo le informazioni sul traffico, tra un attimo vorrò ripartire da Enrico Balducci, perché c'è questa condanna appunto a 10 anni, a capire che cosa pensa lui dello Stato, di uno Stato, di un'istituzione, in questo caso la magistratura, che lo condanna a 10 anni per omicidio quando era lì a lavorare e immagino dal suo punto di vista dice io mi sono visto di dovermi difendere da una situazione di aggressione. Allora, prima di tornare da Enrico Balducci vorrei sentire Pierluigi da Verona che ci ha chiamato all'800 24 0024. Pierluigi, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io volevo dire che questo pervenirmo, il volemo se bene, ha rotto un po' le scatole. Io a questi signori darei un premio, e se queste signorine o questi signori invece di andare a fare le rapine andassero a lavorare, a fare le badanti, non prenderebbero delle pallottole. È ora di finirla, di volemo se bene, eccetera, eccetera. I rapinatori stanno bene così. E questi signori, invece di processarli, diamogli una mano, diamogli anche una bella medaglia all'onore. Ecco, grazie, bene, Pierluigi, devo dire che la sua telefonata, appunto, a parte i messaggi che io ho letto, ma mi dicono anche al di là del vetro, come si suol dire in radio, che le telefonate, del tenore delle telefonate che arrivano sono queste, sono più o meno di questo tipo. Enrico Balducci, le ho fatte sentire una, ma ecco, intanto vuole rispondere lei a Pierluigi, cioè l'idea del dare un premio, lei che si trova nella situazione in cui si trova anche Cifra. No, nessun premio, guardi, a me dispiace, ma sa perché? Perché poi bisogna starci nella situazione per capire veramente che cosa accade, perché nessuno di noi è fuori di testa, cioè voglio dire, io ho 50 anni, ho 51 anni Vabbè, ho diversi distributori di carburante, quindi diciamo è un segmento, è un settore piuttosto a rischio, perché noi purtroppo gestiamo molti contanti. E io ho avuto 20 anni, 32 eventi, una dozzina di rapine, e su quel maledetto impianto in provincia di Bari avevano ammazzato il gestore precedente durante una rapina. Cioè già 12 rapine aveva subito? Io non su quell'impianto, no, in generale. Ma l'ultima l'ho avuta a gennaio, cioè a gennaio io ho venduto un distributore che avevo in provincia di Bari 10 giorni fa, perché hanno fatto una rapina da Far West. Francamente io le dico proprio con onestà, non me la sento più, perché io capisco anche che poi ci sono i dipendenti, le famiglie. Sì, ma prima di tutto anche la propria no, vita e la propria sicurezza. Guardi, le dico la verità, per come è andata la mia vicenda, esiste una logica, esiste, come dire, un codice tra noi e la malavita, almeno qui al sud. Per cui se a me fanno un'altra rapina, la prossima volta mi ammazzano, perché mettono in conto che io ho reagito una volta. E la rapina che abbiamo subito a gennaio è andata così, cioè hanno scaraventato fuori strada una mia dipendente, hanno spaccato i vetri della macchina, gli hanno spaccato un dente con la canna della pistola e gli hanno sottratto l'incasso. Se il trasporto del danaro l'avessi fatto io, forse sarebbe andata diversamente. Vabbè, ma a parte questo, ripeto, non, adesso nessuno vuole fare, come dire, il giustiziere della notte o cose del genere, ma non c'è da dare un premio, qui c'è da far funzionare lo Stato. E lo Stato, cioè, e lo Stato non vuol dire, lei sta dicendo, non certo Stato, condannarmi, cioè, per 10 anni, per esempio. No, far funzionare lo Stato sicuramente per la prevenzione, cioè voglio dire, almeno io conosco poco il nord Italia, ce lo conosco, ci sono state tante volte, però diciamo non so qual è la situazione per quanto riguarda la criminalità, ma qui è devastante, qui al sud. Però certo. Guardi, anche al nord purtroppo l'idea di prevenire una rapina sì, si può fare, però temo che purtroppo da che mondo è mondo ci sono state e sempre ci sarà qualcuno che vuole, ma correre, guardi, questo rischio. Dottore, mi consenta, ma per quanto riguarda per esempio i distributori di carburante, ma che ci vuole a fare i pagamenti informatici? Cioè perché non si tolgono le commissioni? Ah, quello sì, cioè, dovrebbe un essere. Un benzinaio prende 35 millesimi di euro al litro, giusto? Allora se fa la carta di credito e ha la commissione, il suo margine viene più che dimezzato, cioè prende 10 millesimi di euro al litro. Allora lei quando vende qualcosa fa uno sconto dell'80% sul suo margine, no? È chiaro, questa potrebbe essere una soluzione, lei dice, ma io le vorrei chiedere cosa ne pensa lei nei confronti delle istituzioni. So che lei ancora, voglio dire, è al primo grado di giudizio, quindi non sarà neanche facile magari dire quello che pensa fino in fondo, ma cosa ha pensato dopo una condanna a 10 anni? No, io guardi, non, cioè, ripeto, ho deciso di parlare perché poi alla fine sono un po' stupito, però siamo ancora, c'è solo il dispositivo, io voglio leggere le motivazioni, poi perché sa, guardi, l'omicidio volontario, poi io un po' mi sono informato, sono laureato in legge ma non ho mai fatto l'attività forense, ma l'omicidio volontario, che tu ti determini ad uccidere qualcuno, poi c'è una variante che si chiama dolo eventuale, che significa che tu metti in conto che sparando puoi uccidere qualcuno, cioè lo pensi. Sì. Arrivi a quella determinazione. Ora, a parte l'evento in sé, ma è pensabile che in un secondo e un quarto, io, ma qualunque persona biologicamente, mentalmente, possa aver fatto questa riflessione, aver deciso e aver sparato? Quello è l'omicidio. Questo, se vuole, sono le riflessioni tecniche, diciamo, legali che utilizzerete, ma invece lei dal punto di vista umano e personale che ha provato? Ma dal punto di vista umano questa cosa è devastante, nel senso che io non la ritengo, guardi, una cosa giusta quello che mi sta accadendo, però io sono stato tanti anni nelle istituzioni anche, per cui non riesco nemmeno a fare una critica violenta, come molti fanno, anche molti politici, alla magistratura. Sì. Io Io credo una cosa diversa, che bisogna starci nelle situazioni e che spesso alcuni magistrati non ci stanno. Cioè, voglio dire, è diverso studiare un codice penale, sì, o leggere delle carte dal capire esattamente, stando per strada, che cosa accade. Cioè, sono due cose diverse. No, ma sicuramente. Dopodiché è chiaro che 2 più 2 uguale 4, ma purtroppo il diritto bisogna calarlo nelle cose, nelle situazioni. Nelle cose. Poi, voglio dire, qui c'è stata anche. Non so, io guardi, non riesco a capire perché io non, guardi, io non oso immaginare che ci sia stato, anche perché conosco questi magistrati, sì, che hanno, sono persone per bene, cioè io credo che abbiano vissuto anche un dramma. No, ma su questo non c'è dubbio. Io qui Enrico Balducci la devo fermare e la ringrazio, così come ringrazio il sindaco di Monteurano Francesco Giacinti. Mi devo fermare, lunedì non siamo in onda. Voglio salutare Viola Bottoni, se ne va al di là del vetro per altri lidi. Ciao Viola, è stato bello. A martedì.